Capitolo 2. La notte di fuoco. Montagnana, 25 marzo 1242. Milo non dormiva bene da tre notti. C'era qualcosa nell'aria di quei giorni, qualcosa che i cani sentivano prima degli uomini e che faceva irrequieti i cavalli nelle stalle. I mercanti che arrivavano da Verona parlavano poco e mangiavano in fretta, con gli occhi che correvano verso la porta delle taverne, come se aspettassero qualcuno che non doveva trovarli lì. Le guardie sulle mura erano state raddoppiate, e il capitano Rinaldo, uomo di poche parole e molta esperienza, aveva smesso di sorridere del tutto. Milo era diventato il garzone degli armigeri da quasi due anni. Affilava spade, lucidava elmi, portava messaggi da una torre all'altra. Conosceva ormai ogni pietra delle mura, ogni crepa nel legno dei camminamenti, ogni guardia per nome. Aveva 16 anni e si sentiva già un soldato, anche se non aveva ancora impugnato una spada in battaglia. Quella notte era di turno con il vecchio Bertone, una guardia dalla barba grigia e le gambe storte che aveva combattuto contro i veronesi 20 anni prima e da allora non aveva più smesso di raccontarlo. «Stai fermo!» borbottò Bertone, senza alzare gli occhi dalla coppa di vino che stringeva tra le mani nodose. «Cammini avanti e indietro come un'anima in pena!» «C'è qualcosa?» disse Milo, fermandosi sulla torre di guardia e fissando l'oscurità della pianura. «Non sentite?» «Sento il vento!» «No!» «Sotto il vento, come un rumore di terra che si muove!» Bertone alzò finalmente gli occhi, strinse le labbra, poi si alzò lentamente, con uno scricchiolio delle ginocchia, e si avvicinò al bordo della torre. Il silenzio era strano, troppo pieno. Fu allora che apparve la prima luce. Non sulla strada, non dove ci si aspettava un viandante o una torcia. Apparve ai margini della pianura, bassa e arancione, e poi un'altra, e un'altra ancora, finché l'orizzonte non sembrò prendere fuoco tutto insieme. «Alla guardia!» urlò Bertone con una voce che Milo non gli aveva mai sentito prima, una voce giovane e disperata che sembrava appartenere a un altro uomo. «Alla guardia! Nemici!» Montagnana si svegliò nel caos. Le campane cominciarono a suonare tutte insieme, un suono caotico e disperato che rimbalzava tra i tetti e le mura. Le donne afferrarono i bambini, gli uomini cercarono le armi, i preti corsero verso le chiese. Milo scese dalla torre di corsa, inciampò sui gradini, si rialzò, raggiunse la postazione delle armi dove il capitano Rinaldo stava già distribuendo spade e archi con la rapidità di chi ha preparato quel momento mille volte nella mente. «Ragazzo!» gli gridò Rinaldo, lanciandogli una spada corta. «Stai vicino alle mura!» «Non eroismo, hai capito? Stai vicino alle mura e fai quello che ti dico!» Milo annuì, stringendo l'impugnatura con una mano che non tremava. O almeno, così si disse. Le schiere di Ezzelino avanzavano nella notte come un'onda scura. Veronesi, tedeschi, saraceni, uomini di ogni terra uniti sotto il gonfalone del Romano. Le loro torce formavano un serpente di fuoco che si snodava dalla pianura verso le mura di Montagnana, e il rumore dei loro passi era ora chiaramente udibile, un rombo sordo e continuo come tuono lontano. Poi arrivarono le frecce infuocate. La prima cadde sul tetto di una casa vicino alle mura e prese fuoco in un istante, come se il legno aspettasse solo quella scintilla. La seconda cadde sul camminamento. La terza, la quarta, la quinta, una pioggia di fuoco che trasformò la notte in qualcosa di infernale. La notte durò un'eternità. Quando l'alba cominciò a tingere il cielo di un grigio sporco, Montagnana era in fiamme per metà. Le mura di legno che avevano protetto la città per generazioni erano ridotte a tratti anneriti e fumanti. Il marchese Azzo VII d'Este era fuggito prima dell'alba. Ed Ezzelino III da Romano era entrato in città come un padrone che prende possesso di ciò che considera già suo. Milo era seduto sui gradini di una casa ancora in piedi, con un taglio sul braccio che qualcuno aveva bendato senza che lui se ne accorgesse, e guardava il fumo alzarsi verso il cielo mattutino. «E adesso?» chiese Milo sottovoce. Il vecchio soldato non rispose subito. Guardò le fiamme, guardò i soldati nemici che pattugliavano i vicoli, guardò il gonfalone del romano, che qualcuno aveva già issato sulla torre più alta. «Adesso», disse infine Bertone, «adesso impariamo a sopravvivere. E aspettiamo». «Aspettiamo cosa?» Il vecchio si alzò a fatica, le ginocchia scricchiolanti come sempre, e guardò Milo con occhi che avevano visto troppe città cadere e troppe città risorgere. «Il momento giusto», disse semplicemente. «Viene sempre. Per chi ha la pazienza di aspettarlo?» Montagnana era caduta, ma Milo, figlio del fabbro, era ancora vivo. E dentro di lui, sotto la stanchezza e il dolore e la paura, qualcosa di duro e ostinato si era posato nel petto come una pietra nel fondo di un fiume. Non era ancora coraggio, ma ci assomigliava.